Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. This is Carmen Ross. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Grande Checco, grande Checco. Oh ragazzi, buonasera, siamo a Now Boarding, questa è Now Boarding, Radio Sonora 102 e 200. Buonasera. Checco stasera ce l'ha fatta, finalmente ce l'abbiamo fatta tutti e due. Deve essermi uscito un acuto che non ti dico. Speciale, beh, lo ascolteremo con calma. E, bene, e, ripeto, ciao ragazzi, e, questo è il programma, come ormai sapete già voi, no, gli ascoltatori. E, di cosa parliamo? Noi parliamo di italiani che hanno vissuto per un breve o lungo o vivono tuttora periodo all'estero, insomma tutto ciò che è fuori dall'Italia ne parliamo noi, ce ne occupiamo noi, giusto Checco? Esatto, giusto. Non avevo dubbi. Oggi un'esperienza un po' diversa in un luogo altrettanto diverso e interessante, puntata con ospite qui in studio. Fermo, ci ascoltiamo intanto. Ascoltiamo intanto i Mattia Bazzar, iniziamo subito così. Sì, dai, facciamo così e direi, dai, Mattia Bazzar con Palestina. Palestina. Rientriamo in studio, questa puntata dicevamo ospite qui con noi, abbiamo portato anche una tazza di tè, vero Ricky? Sì, sì, abbiamo anche la tazza di tè, portata con molto amore direi, da Checco. Eh beh, per i nostri ospiti, no, li trattiamo questo bene. Questo ed altro, sì, tra l'altro tu sei la prima ospite che ha il tè, quindi ritieniti fortunata. Esatto. Tu sei la prima, quindi benvenuta è una donna. Cleopatra, è ciao, una donna, benvenuta. Ciao. Ciao a tutti. Come stai? Bene, più o meno. Tutto bene? Sì, sì. Bene, bene, dai. Sì. Diciamo... Io l'ho già chiesto prima perché la radio fa strane sorprese. Eh sì. Eh sì, questa esperienza, ragazzi, che sto facendo, mi sta permettendo di fare delle robe assurde. A parte questo, era da 10 anni che non vedevo Cleopatra, sempre uguale. Sempre lei. Sperando in un miglioramento. E mi fa piacere di averti qui. Ecco. Ok. No, no, no, no, boarding, caramba, che sorpresa. Oh, yeah. Bene. Allora, Cleopatra, tu sei venuta qui a raccontarci della tua esperienza in Palestina. Iniziamo subito con il terzo grado. Cos'è il terzo grado? Terzo grado sono una decina di domande, i nostri ascoltatori lo sanno, botta e risposta. Mm-hmm. Quindi okay, hai qualche secondo per pensarci. Attieniti, anche meno. Attieniti alle domande. Va bene. Pronti, okay, via. Via. Età, questa è facile. 23. Quando sei stata in Palestina? Aprile-maggio di quest'anno, 2011. Di preciso, dove sei stata? Sono stata a Ramallah, in realtà in West Bank. Sì, io vorrei fermare un attimo il tutto perché sei sempre indietro di un anno. Siamo nel 2012. È l'ultimo nostro anno, cioè rendiamoci conto, dal 21 dicembre di quest'anno. Adios. Caput. E per quanto tempo sei stata lì, quindi? Sono stata 2 mesi. 2 mesi. E là cosa hai fatto? Allora, lì ho proseguito un'esperienza di tirocinio che avevo già iniziato qui in Italia come studente infermiera. E come mai hai scelto proprio la Palestina? Allora, in realtà perché c'ero andata in una precedente vacanza. Uh-huh. E lì ho conosciuto un dottore che mi ha detto: ma sì, ma perché non vieni a fare la tesi qui? Mm. E allora io mi sono buttata su questa storia. Quindi non era una delle alternative, diciamo, sei un po' partita... No, da zero proprio. Ho capito. E non hai avuto... Ok, mi hai detto che sei già stata, però qualche esitazione anche dovuta alla situazione di sicurezza lì nell'andare, un po' di paura forse anche. No, allora, proprio perché c'ero già stata prima non avevo nessun timore, timore proprio alcuno. L'unica problematica c'era stata la primavera araba. Ah, ok, certo. Magari ricordate, la primavera araba è proprio iniziata in quel periodo. Una bomba di primavera, direi. Quindi... in Egitto. Certo, non era... E quindi si pensava che anche i palestinesi avrebbero potuto organizzare qualcosa, magari una quarta intifada. Mm-hmm. Cose che invece, poi non si sono verificate. Ascolta, se ti chiediamo la cosa che di più ti ha segnato, che ti ricordi di quell'esperienza. Allora, la cosa che di più mi ha segnato è stata un ricordo. Semplicemente un ricordo di come mi è venuta l'idea della mia tesi. Ovvero? 4 di notte sono stata svegliata come ogni notte, sì, dalla voce del muezzin. Mm-hmm. Che, scusa l'ignoranza. Muezzin è colui che richiama la preghiera, no? Esatto, esattamente. Nel mondo islamico. Esattamente, ecco. Quindi c'è una torre vicino in ogni quartiere che dove che, vengono messi, no, questi, esatto, sorta di canti, preghiere, esatto, preghiere sotto forma di canti, no? E pensando che queste persone che svegliano tutti hanno bisogno delle cure. No, cure. In realtà non lo so, sono stata svegliata da questo cantante notturno e a un certo punto mi è venuta una folgorazione che non c'entrava nulla assolutamente. Ah, ok, però t'hai illuminato. Esattamente, però ecco, mi piaceva tantissimo quest'idea di questa persona che ti coccola durante il sonno. Certo. E ti accompagna nella dormiveglia, perché ovviamente fine, ti sveglia. Ti sveglia, certo. Ma quindi essere svegliata a parte, riflessi negli stessi luoghi, questa esperienza o no? Assolutamente sì, cioè assolutamente bene, sì. Abbiamo visto, noi che la vediamo dal vivo, abbiamo visto gli occhi brillare, quindi sì, le è piaciuto. Vi assicuriamo che è sincera. Sì. Bene, e direi che per premiarla ci ascoltiamo un pezzo che ha scelto lei, e un pezzo che ha segnato un po' la tua colonna sonora, diciamo, sì, il gruppo dei Creedence, mm-hmm, detto per intero Creedence Clearwater Revival. Esatto. E il pezzo che ci ascoltiamo è... Fortunate Son. Come mai sono stati la colonna sonora che del tuo tirocino? Dai, madonna, ma fa partire la canzone, ce lo spiega dopo. Ce lo spiegherai okay, dopo, allora. un bel pezzo carico questa sera, erano i Creedence con Fortunate Son, e bene, direi che potremmo anche cominciare a farci la nostra piacevole chiacchierata. Sì, allora Cleopatra, ci hai detto che tu sei stata in che zona di preciso? Nella... Allora, io sono stata nella West Bank. Nella West Bank. In particolare ho vissuto a Ramallah, che è una città a 30 km più o meno da Gerusalemme, o da Gerusalemme Est. Allora, facciamo un attimo di introduzione da Wikipedia, nulla di più sulla situazione. Mm-hmm. Diciamo che allora, lo Stato palestinese, alla fine, no, dimmi se sbaglio, è formato da West Bank, dove sei stata tu, e la striscia di Gaza, esatto. No? Ok. In realtà, anche questo ce lo dicevi un po' prima, è sotto di fatto occupazione militare da parte di Israele, no? La West Bank sì, Gaza no. Ok, quindi la zona in cui sei stata tu vive questa occupazione. Mm-hmm. Sostanzialmente tutti gli stati, tranne Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, per il resto del mondo ha riconosciuto lo Stato palestinese, che però vive ancora in questa situazione. C'è in corso, c'è stata la scorsa estate un processo per farlo diventare il 194esimo stato dell'ONU. Ancora non abbiamo raggiunto questo traguardo, è entrato nell'UNESCO, però forse un po', forse dall'entrata secondaria sta, speriamo, insomma, entrando tra le Nazioni Unite, ecco, la Palestina. Conoscenze non ci delude mai. Ma questa è tutta Wikipedia. Tra l'altro, fate sta donazione. Vabbè, però di dai, l'ha detta bene comunque. Sì, fate sta donazione di 10 euro a Wikipedia, che fa sempre bene. Sì, sì. Piuttosto di tante altre cose. Allora, qua sappiamo che vanno a finire a Wikipedia. Allora, quindi detto questo, insomma, questa è un po' la situazione. Che tipo di tirocinio era il tuo? Cioè, come, in cosa consisteva? Allora, in realtà me lo sono un po' inventato il tirocinio, perché sono arrivata lì e loro mi hanno detto: beh, bene, sei qui e che cosa vuoi fare? Perché ho un po' costretto le persone a invitarmi lì, no? Ok. E allora alla fine ho seguito questa dottoressa, Samia Lilè, una pediatra che in realtà fa ricerca per una per l'università di Birzeit, che è un'università privata in stile americano. Ok. La ricerca si trattava di una ricerca sulle cartelle cliniche infermieristiche di ogni primary health care center. Cioè? Che sono delle strutture che non sono presenti in Italia, ma sono soprattutto presenti nel terzo mondo. Ambulatori, cose del genere? Sì, esatto, sono degli ambulatori che si occupano di cure primarie, ma non cure primarie tipo pronto soccorso, ma per esempio prevenzione, quindi vaccini. C'è un po' il nostro ambulatorio, diciamo, forse. Sì, esatto, solo per darci, ecco, un'idea. Come medico di base. Ah, il okay. Medico di base per loro è nei primary health center. Ok, ok. Quindi facevi questo lavoro forse anche di indagine. Esatto. E poi quando non lavoravo per lei, invece, andavo in un primary health center vicino Ramallah, in un villaggio, Betunia Balad, e lì facevo vaccini ai bambini e mi occupavo di misure antropometriche, così. Ho capito. Ci stiamo capendo. Quando ho detto antropometriche, ci siamo guardati. Grossi punti interrogativi, diciamo, sulle nostre, diciamo, teste. Che Checco ha guardato me e io continuo a guardare Cleopatra. Ok, ok. Circonferenza cranica, larghezza, lunghezza, cose del genere, okay, peso. Ok. Ma quindi non era un tirocinio convenzionato? No, però è stato riconosciuto, fortunatamente. Ok. Che tipo di riconoscimento ti è andato poi all'università? Cioè, ne sei stato apprezzato il fatto che tu ti fossi recata lì, avessi fatto un'esperienza di questo tipo o anche no, diciamo? Ma l'università in sé non l'ha detto nulla, me l'ha accettato quando io ho presentato la domanda e poi me l'ha, credo, sì, perché sono laureata, quindi me l'ha accettato dopo quando ho portato tutti i documenti del mio tirocinio. Ho capito. E poi, non lo so, la direttrice del nostro corso di laurea era molto, molto, cioè, entusiasta della cosa. Ah, ok, certo. E poi ci dicevi che sei rimasta lì per sviluppare la tua tesi? Esatto, sì. ovvero che è quella che ti ha ispirato, è quella che ti ha ispirato il Muezzin. Esatto, no? Il Muezzin. E cosa consisteva? Allora, praticamente mi sono resa conto che c'era una diversità fra il rapporto che c'è fra l'infermiere o comunque il personale, il personale medico in ambulatorio con, durante la seduta vaccinale, con il rapporto con la famiglia o con la madre rispetto a quello che in realtà c'è in Italia. Cioè, diffidenza, cose del genere? No. Allora, in Italia ho notato che c'è molta più diffidenza, comunque molta più curiosità, oppure molta più tensione in questo rapporto. Ma da parte della madre? Da parte della madre, sì. Ah. Mentre in Palestina diciamo che è molto, molto, molto più tranquillo. E diciamo quindi, che si fidano di più. Esatto, si fidano di più. Lo vedono come... come, diciamo, una prevenzione completamente... cioè praticamente al 100% utile e non dannosa, ecco. Ah, ok. E quindi niente, ho voluto esplorare questo argomento. Ho voluto esplorare questo argomento e ho prodotto un questionario in arabo. Ok. Tutto. Ok. ho tirato su delle domande. Tirato su. Sì, le ho fatte tradurre. No, le ho fatte tradurre. Ah, ok. Vedi tradurre, che sì. C'era il trucco. E poi l'ho fatto esattamente. Visto che dicevamo che hai fatto le domande per la tua tesi in arabo, adesso direi che ci traduci Ramallah, ok? E una canzone, un rap di Behram Miri. Ok? Credo di esserne capace. Vabbè, alla fine ne parliamo. Vai, Checco. Palestina, Palestin, Palestin. Al-Qud, Zaytun, Olit, Khaden, och alltid varit din. Och min stötten är min och din. Ja, minnen finns och tiden minns. Medans minnen rivs och si och ni som si. Ja, visst, om vem som fanns och trans. Om vem som finns, ja visst, med din är sin. Shidem, med din är fin som alla din. Får vandra in, men passa in. Får göra förstör för alla som ber för alla akva. Varför klandrar ni? Vi hamnar visst i check mot en släd. Det som släden blev av med knäck och deg. De nekar en seger hämt. Utvisade vad hände sen. Ockupation av en nation. Tidigare var detta media då Amerika till indianerna som blivit kvitt. Lär som du lär samerna är Sveriges akilleshäl. Ni visste det väl, all gräl kommer från egot själ. Ramallah, Ramallah, dit att vi ska vandra. Ramallah, Ramallah, när ska muren falla? Ramallah, Ramallah, en del av oss alla. Ramallah, Ramallah, när ska muren falla? Borde gjort mitt hem från Gaza till Betlehem. Lod, Haifa, Nabu, Jaffa, Jerusalem. Civilisationens vacka där kulturer alltid blandas. Sedan 47 och assimilation varit fakta. Västbankspråk kan inte besöka Al-Aqsa. Ja, man fastnar och fastar man under Ramadan. Så är man likställd med en fundamentalistisk taliban. Men sker det under påsken, ja då man måste. Och firar man tomten, då är det så. I botten är det samma problem som Israel. Att handla om att västaden är oljeberoende, troende eller ej. Shit, tänk ett slag. Folk får sabra Shatila. Får inte libanesisk medborgarskap. Och det kan inte åka hem statslösa. Kan David-avtalet gör dem maktlösa. Wayne Ramallah är det enda de önskar. Demokrati enbart om det är rätt parti. Sanktioner ifall det blir fel. Jag pallar chi, vilket hyckleri. Ja, det tycker vi. Pass på folkets röst, öst om tycket blir annorlunda. Man blundar när olivlundar plundras. Fattar man inte, det är ju så terrorn grundas. Murar istället för samlevnad symbios. Palestina, judar och semiter som alltid umgåtts. Ya Qudsi, ya Sayyidati, Ghaliyati, Habibati. Ya Qudsi, ya Sayyidati, ya Habibati, ya Ghaliyati. Ya Ramallah. Cleopatra, cosa hai capito? Traduci. Assolutamente nulla. Io ho capito Palestina e Ramallah, okay. Però figa come canzone, mi gustava. È il gruppo più famoso di Ramallah, quindi. Sì o no? Sì. Bello, bello, mi piace, mi piace. Torniamo a noi. Mm-hmm. Quindi hai detto che sei andata in Palestina, ci stai raccontando che si hai fatto un tirocinio lì. Mm-hmm. E precisamente in cosa consisteva quindi il tuo lavoro quotidiano? Appunto, allora passavo dalla ricerca, nel senso che aiutavo a spulciare un sacco di cartelle infermieristiche. Uh-huh. Che hanno la doppia traduzione sia in arabo che in inglese. Uh-huh. Perché ovviamente sfruttano anche dei fondi americani, quindi e quindi sia per questo motivo sia perché comunque sono un'ex colonia inglese. Sì. Allora comunque tengono la doppia lingua, anche perché comunque il personale infermieristico e medico studia in inglese all'università, quindi i centri che frequentavi insomma per lavoro. Mm-hmm. come gente. Mm. C'erano solo palestinesi, c'erano anche israeliani, diciamo. No. C'erano no assolutamente zero. C'erano soltanto palestinesi. Ma cioè come li distingui? Allora si distinguono. Hanno una fascetta, non so. Allora, diciamo così: che gli israeliani civili che trovi nei territori della West Bank sono dei coloni. I coloni sono degli israeliani che seguono la religione, sono ortodossi, seguono la religione ebraica. E quindi diciamo che li riconosci dal loro modo di vestire. E mentre gli altri israeliani sono dei militari, quindi normalmente gli israeliani civili li trovi soltanto nei territori occupati, quindi tu non, come internazionale oppure come palestinese, non puoi assolutamente accederci. Oh. E mentre i militari li trovi magari mentre stai viaggiando nel pulmino, ci sono dei posti di blocco. Sì, allora, e ti fermano, ti controllano i documenti. Se... Ma non è un bel vivere comunque. No, soprattutto per appunto il trasporto o comunque il viaggiare da un posto all'altro è problematico, anche perché se non hai i giusti documenti, se non hai i giusti... È un casino. Mm-hmm, esatto. Sì, dai, alla fine sono delle nazioni o nazione, chiamiamola un po'... in guerra, non in conflitto, quindi credo sia normale. Ma sapevi dove andavi? Sì, sì, esatto, sì. Ecco. Sì. Hai dovuto sottostare anche tu a questo sistema di visti, di permessi, di difficoltà nel muoversi in qualche modo? Allora, per esempio, il problema principale è, per esempio, quando sono atterrata a Tel Aviv, sono atterrata alle 4 di mattina e mi hanno tenuto fino alle 5 e mezza del mattino per... Ferma. Si ferma sotto interrogatorio da una persona all'altra perché non capivano bene chi ero, che cosa facevo lì. Addirittura. Sì, esatto. E quindi, ma questa è una procedura normale. Quindi. E nel quotidiano, negli spostamenti? Negli spostamenti auto, è così. Poi, ovviamente, se stai a Ramallah è una zona A, quindi dovrebbe essere una zona in cui non c'è l'occupazione israeliana. Poi ci sono i momenti particolari e uno di questi io l'ho vissuto, in cui la città si svuota da qualsiasi presenza militare palestinese e anche civile palestinese e si riempie invece di presenza militare israeliana. Ok. Quanto invece al rapporto con la popolazione, hai avuto modo di conoscere, diciamo, gente del posto al di fuori magari dei tuoi colleghi? Beh, assolutamente sì. Diciamo che tutto è partito dai miei coinquilini. Casualmente ho avuto due coinquilini palestinesi e una coinquilina italiana. Ah, di Milano. Bene. Esattamente. E quindi fiesta forever fuori insieme. Esattamente. Ma la sera gli fanno festa? Allora, ci sono... Com'è la movida? Cioè, allora, c'è la coprifuoco? Movida c'è. C'è? No, non c'è coprifuoco, assolutamente. La questione è questa: ci sono due tipi di palestinesi. Sì. C'è il palestinese che si sa divertire e il palestinese che sta a casa. Ma no, non è che sta a casa, fa un altro tipo di cosa. Cioè? Allora, diciamo che là sono musulmani, sono islamici. Sì, sì. Quindi magari hanno restrizione, okay, con le bibite. Esattamente. Tutto, quindi appunto quel tipo di palestinese non frequenta i locali che magari potrei frequentare io. Quando si perdono. Esattamente. Poi io conoscevo questa milanese, sì, che lei conosceva tantissimi altri palestinesi, no, internazionali, ah, okay, spagnoli, francesi, sì, sì, sì, sì, soprattutto tedeschi, sì, americani, e quindi facevamo delle grandi feste con loro. Fra loro c'erano anche appunto dei ragazzi palestinesi, uh-huh, soprattutto artisti. No, artisti, sì. Ma artisti di che genere? Musica? Sia di musica che di design. Ah. Per esempio, una ragazza aveva aperto un negozio, una cooperazione, sì, che portavano in negozio tutti, come si può, cioè borse. Con parole tue, respira e okay, ci siamo. Allora, borse. Ah, tipo stilista questa. No, allora c'erano delle cose che faceva lei, sì, e delle cose invece che producevano, per esempio, i beduini, la popolazione palestinese, ah, ah, ma beduina. E li vendeva lei? E li rivendeva appunto come in questo negozio. Come pezzi d'arte? Sì, sì, sì, sì. Ah, figo. Ma... molto, molto, molto bello. In questi momenti in cui eri, insomma, magari con persone di diverse nazionalità, eccetera, c'erano anche insieme israeliani e palestinesi? Sarebbe stato un bel momento, magari. Allora, gli israeliani non possono entrare a Ramallah. Oh. Assolutamente, c'è il divieto assoluto. Non passano per... non riescono a passare per i blocchi. Per i gate. E quindi non c'erano. E quindi non c'erano. In realtà, magari c'è qualche ragazzo israeliano che vorrebbe andare in qualche fuori, discoteca palestinese. Ma non può. Sbalorditivo. Allora, esattamente, il problema non è solo per i palestinesi, ma il problema di mobilità che... è anche per gli israeliani. Quindi i palestinesi non si possono muovere nei territori israeliani se non con dei permessi. Se non hanno i permessi, magari per raggiungere magari Gerusalemme, passano attraverso le fogne. Però sì, però magari per ragioni. Ma se li beccano, cosa gli fanno? Magari prigione. Eh sì. Mi lasci un po' cioè, non che io non le sapessi queste cose, cioè, credo che Checco, i telegiornali ne parlano abbastanza. Sì, però poi sentire raccontare nella quotidianità, no, è diverso. No, fa pensare, infatti, cioè, a quanto fortunati siamo noi. Mi ricollegherei, sì, al fatto Fortunate Son della canzone di prima, a questo punto, se vogliamo fare come rapporti tra palestinesi e israeliani, zero, quindi qualcosina c'è. Ma sì, i rapporti ci sono, delle collaborazioni. Cioè, ma si parlano cioè quando si trovano, no? Allora, non ci sono i momenti di incontro. Cioè, le persone che vivono a Ramallah è difficile che incontrino un israeliano, a meno che uh-huh, non vadano a Gerusalemme, per esempio. Sì, sì, sì. O sì, a Tel Aviv. Sì, si parlano, però. Sì, dai, diciamo che sono vicini ma distantissimi, sì, anni poi, luce, diciamo che tempo. Ci sono anche dei palestinesi, oh, che magari hanno preso la cittadinanza israeliana, perché comunque quando c'è stata l'occupazione da parte degli israeliani, o partivano come rifugiati oppure accettavano la cittadinanza. Uh-huh. Beh, direi che il momento potrebbe essere quello giusto per la prossima canzone, che è Pride in the Name of Love degli U2. Tra l'altro è stato singolare che Bono, nella cerimonia di insediamento di Obama, nel presentare questa canzone l'ha annunciata dicendo è stato un momento importante per l'America, per l'Europa, per l'Africa, e poi ha detto per Israele e per la Palestina. Quindi... la farei partire, Checco, e basta, via. ultimi 10 minuti di snowboarding il tempo per raccontarci della parte finale del tuo tirocinio. Sei riuscita a spostarti in modo un po' singolare anche, no? Esattamente. Allora, ho avuto modo di conoscere una persona che è il ministro del Public Health Center. Detto niente. Esattamente, cioè questo personaggio ha studiato in Italia 10 anni a Roma, medico, e quindi mi ha detto: ma sì, falla venire qui, ci facciamo una chiacchierata. Mi ha preso un po' come sua figlia, io gli ho raccontato della mia idea folgorante di tesi e lui mi ha detto: ma sì, fai quello che vuoi, ti do il permesso di andare in tutti i primary health center che vuoi, e di fare questi questionari, e ti posso assicurare che le persone che saranno lì saranno estremamente collaborative. E questo permesso in cosa consisteva? In un foglio firmato da lui, con il caldo invito di aiutarmi in questa collaborazione, insomma. Ok. E questo lascia passare, ti ha aiutato anche a prendere i movimenti, posti di blocco, eccetera, che ci dicevi prima? No, posti di blocco no, perché ovviamente non c'è rapporto fra il governo palestinese, soprattutto per queste piccolezze, e il governo israeliano. Certo. Però allora i miei spostamenti erano tranquillissimi, perché comunque io ho un passaporto internazionale, quindi posso andare dove voglio. Quindi c'è una certa attenzione e rispetto nei confronti degli ospiti internazionali, no? Sì, esattamente. Cioè ti fanno fare le file come tutti gli altri, però... Beh, chiaro. Mm-hmm. Però comunque non ti fanno molte domande. Certo. Così. Al massimo l'unica cosa che non posso fare è passare in posto di blocco in cui posso passare soltanto con un passaporto diplomatico. Quindi magari devo rifare il giro, tagliare, fare 2 ore di strada in più. Ah, un po' queste lungaggini. Esatto. E quindi che città hai visitato? Ho visitato Jenin, che è all'estremo nord, mm-hmm, della West Bank. Poi ho visitato Nablus. Poi ho visitato Gerico, una città bellissima, bellissima. Tutte città che ci ricordano, danno dei rimandi o biblici oppure fatti, insomma, del telegiornale. E poi ho visitato Hebron. Hebron mi ha colpito moltissimo, tra l'altro. Come che vai? Invece è nel sud della West Bank. Hebron è una zona C, è praticamente una zona sotto occupazione, cioè qui il governo palestinese ha poca presa. Mm-hmm. E dentro Hebron c'è la tomba di Mosè, mi pare, non lo so di chi è la tomba, però c'è una tomba, forse era Abramo, sì. Beh, qualcuno di quelli. Esattamente, insomma, questa tomba ha un interesse religioso potente, cioè è importante sia per gli ebrei che per i musulmani. Mm-hmm. Qualche anno fa questa zona della città, che è il centro di Hebron, è stato occupato. Quindi tutte le colline che ci sono attorno sono state occupate dagli israeliani, mm-hmm, un intervento armato, e tuttora quindi è sotto occupazione. È molto, molto, molto particolare, perché questa zona è completamente deserta adesso, cioè tutti i negozi sono chiusi, sembra di essere in una città... Fantasma, esattamente. Pur essendo un luogo così anche di... teoricamente attrazione, no? Esatto, esattamente. Comunque dovrebbe avere una grossa attrazione turistica e religiosa. Ho capito. E niente, quindi in questa strada lunga, deserta, tu vedi soltanto militari e vedi magari qualche colono, qualche giovane colono con la moglie che porta in giro i bambini. Mm-hmm. E il muro che è stato eretto, quindi per dividere muro, la parte israeliana da quella palestinese, l'hai visto, immagino? Sì, certo, il muro esiste, è fra appunto la West Bank e Israele. Per passare, per arrivare a Gerusalemme, tu devi passare questo muro attraverso i gate, quello di Ramallah è quello di Calandia, è il gate di Calandia. Ma adesso vorrei spostare un attimo il discorso su una questione forse più banale, mm-hmm, ma che per me, almeno per quello che interessa a me, diciamo, tanto banale non è. Mm. Cioè, tu hai vissuto lì 2 mesi, ok? E hai visto palestinesi, israeliani, e credo che tu abbia iniziato a comprendere un attimo i problemi che hanno loro lì. Sì, esattamente. Ecco, ma per farli andare d'accordo. E sembrerà un po' stupida come domanda, cioè, secondo te cosa si può fare per mettere d'accordo queste... Proprio una questione di sentirsi parte del territorio, perché a un certo punto dici: ma perché i palestinesi non se ne vanno? Alla fine, per esempio, quando gli israeliani occupano una casa, per cercare di prendere più territorio possibile, occupano perfino le case. Sì, esatto. Alla fine i palestinesi vengono pagati anche, nel senso, gli israeliani dicono: guarda, ti compriamo la casa, tu vai in America, vai a vivere lì. I palestinesi invece non dicono: no, questo è il mio territorio, mia, sto qua. Ma la stessa cosa dicono gli israeliani, cioè loro già adesso, cioè dopo 60 anni, 60-70 anni di convivenza, loro si sentono, parte del territorio palestinese, quindi di Israele, insomma. Sì, quindi diciamo che è un cane che si morde la coda. Esattamente, cioè ognuno è una cosa si fa che lo non finirà mai. Ognuno si fa lo scherzetto. È una cosa che non finirà mai, se vogliamo. Quindi, cioè, non è colpa di qualcuno, perché è inutile parlare di colpe adesso. Sì, in questo momento non si può dire chi è iniziato. Forse è una stupidaggine, però. Esatto, il problema appunto è che non riescono a mettersi d'accordo anche su banalità. Vabbè, quindi torniamo appunto a capo e magari lasciamo un punto interrogativo. Esatto. Direi che il tempo, Checco. Sì, in effetti, come un po' anche previsto, sarebbe stato impossibile, no? Trattare in maniera esaustiva, insomma, però abbiamo avuto un'idea di, alla fine, una situazione surreale, no? Sì. Direi anche di sì. Esatto, surreale. Cioè, non... Poi alla fine ti abitui, ed è strano quanto ti abitui. Però è surreale. Oh. E è una esperienza che consiglio a tutti, perché... Bene, ragazzi, se non avete... Il territorio è molto bello, sia da una parte che dall'altra. Va bene. E Checco, lascia a te la parola e non so se volevi dire qualcos'altro di sensuale, di amichevole. Ma visto appunto che abbiamo detto che Cleopatra diceva è molto bello da una parte che dall'altra, l'ultimo pezzo sarà Tel Aviv, quindi città da parte israeliana, un pezzo dei Duran Duran. Nel frattempo diamo i contatti, www.radiosandona.it è il sito da cui è possibile ascoltare tutte le nostre puntate e i programmi della radio, oltre che in FM sui 102-200. Il nostro blog, dove trovate tutto i riassunti delle precedenti puntate e i podcast, nowboardingradio.wordpress.com, Facebook Nowboarding Radio, infine la nostra mail nowboardingradio@gmail.com. Ogni tanto i contatti li dà anche Checco. Grazie Checco e grazie Cleopatra. Grazie, è stato un voi. Piacere. E Checco, direi che ci vediamo alla prossima puntata, il prossimo mercoledì. E basta. Ciao ragazzi. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Ciao.